partirò, andrò lontano. Senza problemi e rischi, qui seduto sul mio divano. Niente più giorni tristi, dove me ne andrò? Ma dietro alle montagne, grandi campi di popcorn. E allora sì, ci sarà il vento che mi aiuta con un soffio a far tornare il sole. Continuerò fino ai grandi campi di popcorn. Lì vedrai, lo sai, che pace avrai. Lo sai, e lì vedrai, e andrai lontano. Senza problemi e rischi, seduto sul tuo divano. Niente più giorni tristi, dove te ne andrai? Ma dietro alle montagne, campi di popcorn vedrai. Allora sì, a far tornare il sole. E poi, anche se pioverà, imperterrito continuerai fino ai grandi campi di popcorn. E lì vedrai, lo sai, che pace avrai. Lo sai, e lì vedrai.